dici? Cominciamo. Positivo. My name is Kumar Ravish, I come from Bangladesh. Col mio viaggio allucinante per ricordo un salvagente. Sgrano gli occhi ed è uno shock, stu paese mi conquista. E comunitario doc di palese razza mi. Sportello anagrafe, fratello, tocca a me, yeah. La tua lingua faccio a pezzi, ma la poesia tu non apprezzi. Serve a poco l'impazienza, grazie chiedo residenza qui nei pressi di Vicenza. C'ho in una osta della questura e mi pare regolare il certificato in italiano che tradotto niente male. Guardo il timbro dell'ambasciata, ovviamente originale. Occhio al visto sul passaporto con scadenza decennale. Ma che? Ma che succede? Ma che c'entra la pigre della Malesia col Bangladesh? Ma leva sta cosa, per cortesia. Le speranze di agiatezza sono già una certezza. Stiamo in otto in una stanza, ma non ha molta importanza. Coraggiosi sognatori, mi accogliamo volentieri. Regolario, vacanzieri. Giornata che comincia in conceria, quanti bei colori spalmo anche sulla faccia mia, tutti insieme a saltellare, che vivace compagnia, che profumi penetranti, questa adesso è casa mia. Uno dai capo lascia stare, non chiamarmi qui ingegnere, ma se mi incontri d'altro ieri, basterebbe salutare, solo per buona creanza, se vuoi per riconoscenza, complimenti per la panza. La stagione sta cambiando, già si ingrossa il Brahmaputra, yeah, yeah, yeah, yeah. Lento e austero sta scorrendo, tu lo senti ed è già qui. Ed è già qui. Lui straripede invadente, ma feconda, generoso, lui arricchisce, convincente, ed è gradito da chi può. Sorprende i commensali, ed il più fine dei palati l'accompagna con il brie, con soppressa e pomodori e una babele di sapori. Ingoia tutto o tu sei fuori, hey, tu sei fuori, hey, sei fuori, sai, sei fuori, hey. E no, e sono dentro.